La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci, puntuali all'appello, all'appuntamento del sabato alle 18 con tutto il cinema che c'è su Radio 24. La rosa purpurea in una settimana che non è che abbia proprio, diciamo così, le stigmate della settimana densa per quanto riguarda le uscite, anzi, penso che sia forse la meno numerosa di questa stagione. 5 soli nuovi film in sala contro gli 11 di settimana scorsa, i 13 della prossima settimana. Ogni tanto, diciamo così, la distribuzione dovrebbe mettersi lì attorno a un tavolo e dire: senti, la settimana prossima quanti film escono? 5? Beh, facciamone uscire 7, così la settimana dopo ne escono 9 anziché te. Cioè, niente, qui invece si va avanti in questa maniera. E noi sta settimana ci soffermiamo di più sui film, anche perché qualcosa da dire c'è, e scopriremo anche, come sempre, tutto il cinema che c'è in altri mondi, come per esempio quello dei palchi teatrali o delle rassegne del cinema da vedere in casa. Giocheremo insieme, questo è immancabile, con il nostro DVD Game, per cui state pronti, polpastrello allenato per riconoscere il nostro film misterioso. Vi ricordo subito la nostra pagina Facebook, che è La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace, tutta la settimana noi e voi chiacchiereremo di cinema. Box office subito, per dire che il film che è partito col piede giusto, col piede migliore, nel primo giorno di programmazione di questa settimana, il giovedì, è stato The Divergent Series Allegiant. E allora andiamo a sentire la clip di questo film. La gente pensa che le mura servano a separarci, ma servono anche a proteggerci. Sarà dura scalare quel muro. Quelle persone ci hanno tenuti chiusi in una gabbia per 200 anni. Non sono persone con cui vorrei avere a che fare. Per alcuni di noi il vostro arrivo è un evento molto emozionante. Tutti quelli che conosciamo moriranno. Dove vai? A casa. Non lottiamo tra noi, lottiamo contro quelli al di là del muro. Abbattetela. E allora torna la saga di Divergent. Siamo arrivati al capitolo finale, l'ultimo libro è stato appunto Allegiant, e adesso il libro diventa film con la regia di Neil Burger, con il cast che mette insieme alcuni dei volti già visti in questa serie, come appunto Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd e Kate Winslet, per raccontare il classico, più classico dei futuri distopici, quello in cui una grande guerra ha distrutto tutto le città, la società si è riorganizzata. E come si è riorganizzata? Per caste, la cui appartenenza non è per nascita, ma per una scelta che viene fatta quando si compiono i 18 anni, quando si compie la maggiore età. Insomma, avete già capito che l'organizzazione del libro e del film è la stessa che, come dire, abbiamo trovato, sì, con sfumature, ma che abbiamo trovato in tanti libri barra film di saghe che sono diventati film degli ultimi anni, a partire da Hunger Games, per dirne una, ma anche ci sono altri episodi, un momento, un periodo, sono anni di grande ritorno della fantascienza distopica, che però si rivolge soprattutto ai teenager in questo caso. Con quale risultato? Con questo film Allegiant, rispetto anche ai precedenti della serie, lo chiediamo a Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, voto tuo per questo Allegiant? Ma un 7, proprio quei 7 che si davano anche a scuola, in cui avevi fatto bene il compito, ci avevi messo qualcosina di tuo. Allegiant è esattamente questo, prende un po' della saga di Veronica Roth, che è una saga molto efficace, solidamente ben scritta, di questa distopia dell'essenziale futuribile e futurista. E dall'altra parte, come dicevi tu, sembra aver anche molto ben imparato la lezione di tutto l'universo distopico adolescenziale che si è costruito nel frattempo, soprattutto al cinema, ma anche nella scrittura di queste saghe. Quindi, come dicevi tu, Hunger Games, ma penso anche, e forse in questo è più vicino, Maze Runner. Se vogliamo proprio, ecco, fare una dare un'etichetta precisa, si prende, per quanto riguarda la protagonista femminile, il modello di Hunger Games; per quanto riguarda invece l'impianto strutturale di scrittura, di sceneggiatura e anche di costruzione di questo tipo di universo, Maze Runner. Il risultato è buono, perché sembra esserci da parte della regia e della scrittura un'intenzione di provare a staccarsi anche un po' da Veronica Roth, di dare alla saga cinematografica una sua autonomia, sempre sui binari però riconosciuti dai precedenti capitoli, sia letterari che cinematografici. Sono bravi sia Theo James che Shailene Woodley, gli attori che continuano a riconoscersi bene in questi personaggi, continuano a portarli avanti molto bene, e poi c'è la tematica molto cara per esempio a Maze Runner della fuga, che in qualche modo è sempre un romanzo di formazione, perché attraverso il fatto che scappi da qualcosa che non riconosci costruisci la tua identità. E quindi è proprio quello che dicevamo, un compito molto ben fatto, che a mio parere merita anche il successo che sta avendo in questi primi giorni di pubblico, perché è proprio il più classico dei film che tu ti siedi sulla poltrona, vedi con interesse e esci abbastanza soddisfatto, perché sei stato intrattenuto e allo stesso tempo un po' riflettuto. C'è da dire che con quest'ultimo capitolo il sospetto che questo genere abbia dato più o meno tutto c'è, perché sembra non esserci veramente nessun'altra via d'uscita, ecco, nessun'altra via di fuga per raccontare qualcos'altro di nuovo. Però, insomma, possiamo essere soddisfatti, soprattutto in una settimana così. E allora questo era Divergent, Allegiant. Adesso Viabilità, fra poco torniamo, commedia italiana con Forever Young, e poi dobbiamo parlare del nuovo film dei fratelli Coen, Ave Cesare. Restate con... La rosa purpurea. Stanco? Ma che stanco? Io prima delle 4 non carburo mai, gioia. Io lo so che questa pervertita si accoppia con mio figlio, che c'ha soltanto 19 anni. In effetti 19 sono pochi, Sto vedendo di nascosto con un'altra donna. Ma sei pazzo, quanti anni ha? 48. Cioè tu tradisci quel gran pezzo di gnocca di Marica con sta bidella. Guarda che nella vecchiaia ci sono anche un sacco di lati positivi. Ad esempio? Ad esempio non sei morto giovane. Si tratta di Luca, è successo che si è messo con una. Che ha questa? Si droga, beve, è malata. C'ha 48 anni. 48 anni? Pure lui, ma che è un'epidemia, Mettere in burla così i difetti, le caratteristiche degli italiani di oggi, le particolarità, chiamiamole così, è il compito principale della commedia italiana. Poi bisogna farlo, magari appunto si può farlo con quello sguardo agrodolce, spesso più agro che dolce, della grande commedia italiana, lo si può fare in maniera un pochino più... così riderella. Adesso capiremo anche con Boris dove si colloca questo Forever Young, che è il ritorno alla regia di Fausto Brizzi, uno con le notti prima di, che con le notti prima degli esami ci aveva, come dire, raccontato un po' la nostra vera gioventù, e stavolta ci racconta una finta gioventù, che è un po' una sorta di epidemia davvero, come avete sentito nella clip, che sta invadendo, forse ha invaso la nostra vita. Oggi ci si sente dire no, ma è un bravo ragazzo, e quel ragazzo ha 50 anni, ma perché effettivamente un po' la vita che facciamo, un po' i modelli sociali che seguiamo, un po' la presenza ormai sempre più massiccia dei social network permettono di venderci sul mercato per quello che spesso non siamo, no? E poi invece la vita arriva bella serena a dirci come stanno veramente le cose. È quello che accade in questo film Forever Young. Ad alcuni di questi personaggi nel cast: Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, tanto per dirne alcuni. Boris, il voto? Il voto è un 5, purtroppo, perché non decide dove vuole andare questo film. Se seguiamo quello che Fausto Brizzi ci disse ai tempi di notte prima degli esami, i suoi modelli erano sostanzialmente il Vanzina di Sapore di Mare e il Lucas di American Graffiti. L'impressione è che proprio lui non faccia una scelta tra questi due modelli, e quindi cerchi un pizzico di Vanzina, una briciola di Lucas, ma poi cerchi una via di mezzo che non soddisfa nessuno. A mio parere è un peccato, perché Fausto Brizzi con Notte prima degli esami, ma anche in qualche modo con Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi e altri film, aveva dimostrato di avere una sua poetica e di avere un suo modo di raccontare che avevano un proprio fascino. Adesso l'impressione è che lui usi la commedia corale come un antidoto alla verticalità della narrazione, cioè ad andare un pochino più a fondo alle cose. Come dicevi tu, la commedia può far ridere senza dover per forza essere superficiale, e lui invece utilizza la presenza di tanti personaggi, anche di tanti nomi illustri, per rimanere sempre in superficie. Così Forever Young diventa una specie di catalogo di stereotipi sui super giovani, no? Eliana memoria, quelli che arrivano a ridosso del mezzo secolo e non hanno ben definito la propria identità, o meglio la definiscono rispetto a quello che sono stati. È anche interessante come punto di partenza. Il problema è che appunto Brizzi, sia a livello cinematografico sia a livello di contenuto, non va mai oltre, e quindi si accontenta di rassicurarci con una serie di luoghi comuni. Penso per esempio alla scena in cui Sabrina Ferilli sta in mezzo agli amici di questo ragazzo e stanno tutti guardando lo smartphone, che è un po' un modo di dire: ah, ma non ci sono più le generazioni di una volta. Credo che siano due le chiavi per cui il film non sia particolarmente riuscito. Uno è sicuramente il fatto che insieme ai Forever Young bisognava forse approfondire anche la parte dei giovani che allo stesso tempo non riescono a trovare un loro ruolo nella vita. Per esempio mi sembra molto interessante il personaggio di Pilar Fogliati, che tra l'altro dimostra di avere un buon talento, perché non è la classica bellona stupida che sta con il vecchio di turno magari per cercare una figura paterna, ma che evidentemente non si trova a suo agio semplicemente con i suoi coetanei. E anche Manuel Caserio dice la stessa cosa sostanzialmente, no? Trova in Sabrina Ferilli una femminilità che non riconosce altrove. Purtroppo però questi personaggi rimangono sullo sfondo. Alla fine forse l'unica parte riuscita del film è proprio quella di Fabrizio Bentivoglio. Uno, perché Fabrizio Bentivoglio, anche quando gigioneggia come in questo film, a differenza per esempio, mi viene in mente, Gli ultimi saranno ultimi, in cui dà una delle sue migliori interpretazioni degli ultimi anni, riesce comunque a dare una cifra meno superficiale al suo personaggio, anche grazie a Lorenzo Indovina e Pilar Fogliati, che riescono a definire meglio il suo personaggio. E due, perché lì si va un pochino più a fondo. Detto questo, però, alla sufficienza non si arriva, perché quando tu esci non ti sei divertito abbastanza da dimenticarti della eccessiva leggerezza, quasi indolenza del film, e allo stesso tempo appunto non hai riflettuto abbastanza. È uno di quei film Forever Young di cui ti dimentichi in fretta, quindi magari non esci arrabbiato dal cinema, ma l'impressione che forse potevi andare a cena o andare a teatro o fare qualcos'altro di meglio si fa strada dentro di te abbastanza presto. E allora, questo per quel che concerne il film Forever Young. Noi adesso giochiamo insieme, fra poco tocca ai fratelli Coen. Allora, giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. 3.000 galloni di benzina, come avevi chiesto! Avevi detto qualche veicolo all'inseguimento, forse! Io conto 3 squadre da guerra! Sì, sono stata sfortunata. Atmosfera piuttosto adrenalinica, diciamo così, in questo film che dovete indovinare. Scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, il titolo e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Ave Cesare, che non è solo il mitico saluto romano, ma è anche il nuovo film dei fratelli Coen. E allora, ascoltiamo la clip. Ave Cesare è un film di prestigio con una delle maggiori star del mondo, Baird Whitlock. Signor Mannix. Che succede? Il regista non trova Baird Whitlock. Abbiamo la tua star. Metti insieme $100,000 e aspetta istruzioni. Ciao, Bert. Signor Mannix. Lawrence Toby, grazie di essere qui. Gli studi hanno bisogno di aiuto. Baird Whitlock è stato rapito. Che brutta storia. Per tutte le stelle del cinema. This is the perfect harmony. Sono passate 24 ore, ma lo stiamo cercando. Vorrei sapere che diavolo succede. 20 milioni di lettori vogliono la verità, Eddie. La verità, sì. Eddie? Hail Caesar, il titolo originale del nuovo lavoro dei fratelli Coen con Josh Brolin, Ralph Fiennes, George Clooney, Channing Tatum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton. Insomma, ormai i film dei Coen sono una sorta di dream team per quanto riguarda i cast, non fanno certo fatica a convincere molti dei migliori attori di Hollywood a lavorare con loro. Però stavolta secondo me c'è un però, forse l'avete anche un po' intuito dalla clip, dal trailer. È molto un divertissement su un tema molto molto hollywoodiano, della storia di Eddie Mannix, che è un fixer. Il fixer nel cinema americano, nell'industria del cinema, è quello che aggiusta le cose, che sistema tutto, che ottimizza, che trova una soluzione ai problemi, ai piccoli grandi problemi che si vengono a creare via via con le star, con il set, recupera cose, aiuta a spostare appuntamenti, fixer appunto, gli inglesi hanno una parola per tutto. E siamo nella Hollywood dell'epoca d'oro degli anni 50, quindi questo personaggio si muove in un momento quasi senza regole e sicuramente molto rigoglioso di quel cinema. Si muove però con una certa confusione, ovvero mi pare che in questo caso i fratelli Coen abbiano raccontato questa storia più parlando a se stessi e agli adepti di quel mondo che guardando fuori. Insomma, rispetto al loro precedente lavoro, che era a proposito di Davis, ricorderete la storia di questo cantautore giovane e un po' spiantato che partiva in giro a cercare di farsi accettare dall'industria discografica, qui si approccia all'industria cinematografica, ma lo si fa con molte più farraggini, molte più fatiche, molti più granelli di sabbia nell'ingranaggio narrativo rispetto al solito e sicuramente rispetto al film precedente. Boris, ti ci ritrovi o ti è piaciuto? No, mi ritrovo appieno in quello che dici. Io, uscito dal cinema, ho avuto quel sapore agrodolce che mi viene quando mi risale alla mente la parabola di George Best nel calcio, cioè di quei talenti pazzeschi, straordinari, che però si accontentano di illuminare il mondo per un anno e mezzo e poi di divertirsi a essere se stessi. L'impressione che poi però alla fine quelli che ne godono non siano i tifosi e gli spettatori, ma solo la persona stessa. Ecco, i Coen a me sembrano così. Speravo che con A proposito di Davis avessero preso un percorso diverso in cui ritornare ad amare il proprio mestiere facendo dei film pieni, non dei film come questo, purtroppo, che sono solo un pretesto più che un testo per dimostrare che il loro talento è sempre molto forte, il talento visivo, la capacità nella fotografia e nel montaggio di raccontare qualcosa di diverso a livello di grammatica cinematografica, e anche quel talento forse che è il maggiore ancora più della regia, che è quello nella scrittura. Però questa non è la prima volta che succede loro, anzi dopo gli inizi e dopo qualche film che ha fatto eccezione come l'ultimo A proposito di Davis, loro hanno sempre invece cercato l'esercizio di stile. Ave Cesare è proprio la fotografia è più estrema e più classica di questa loro tendenza a piacersi tantissimo. Il problema però dei fratelli Coen in questo caso è che poi arrivare alla noia, arrivare al loop per cui non c'è nulla di realmente interessante se non il loro stesso talento, è un attimo. Se si aggiunge che in questa tendenza loro coinvolgono quasi tutti gli attori, se non alcuni, come Tilda Swinton, che dà un po' di luce al cast, diventa qualcosa che probabilmente si sono molto divertiti a girare loro, cioè attori e registi, ma che non diverte granché il pubblico. E allora, questo è Ave Cesare, il nuovo film dei fratelli Coen nelle sale da questo fine settimana. Boris, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima settimana per parlare delle novità in sala, e settimana prossima saranno davvero tante. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, grazie a Boris Sollazzo, linea alla regia, fra poco torniamo insieme, Vieri Razzini sarà con noi per raccontarci la tormentata uscita di Weekend. La rosa purpurea. Siamo ancora qua, La Rosa Purpurea va avanti con un altro film che è stato un po' un caso questa settimana. In attesa della sua uscita se ne è parlato molto, adesso cercheremo anche di ricostruire un attimo una verità possibile intorno a questo film, che è appunto Weekend di Andrew Haig con Tom Cullen e Chris New, che viene distribuito da Teodora nei cinema italiani. Ascoltiamo la clip e ne parliamo. Why can't you just understand that some people just want to be happy? Are you happy? I am absolutely fine. I'm sure you are. Don't presume that you understand me. You think just because I want a relationship... Clip che ci riporta i suoni originali del film, appunto, che non è doppiato. Ne parliamo adesso con Vieri Razzini, che è il, oltre che critico, anche distributore, con Teodora. La storia di una coppia di ragazzi. Russell conosce Glenn in un gay club, trascorrono una notte insieme. Da quel momento in poi si racconta davanti al microfono di un registratore, questa sorta di diario diventa una sorta di confronto fra due ragazzi che passano un weekend assolutamente di passione e d'amore. Una storia d'amore nella sua completezza, tutto tondo si potrebbe dire, che però ha un po' come dire disturbato la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che forse non tutti di voi lo sanno, mette dei giudizi sui film. Una volta, quando io ero ragazzo, più ragazzo di adesso, diciamo così, noi giovani critici usavamo un manualetto, usavamo perché riportava la rassegna di tutti i film usciti in Italia in maniera completa, ed era appunto il famoso CCC, edito dal Centro Cattolico Cinematografico. Ci serviva proprio come sorta di almanacco, perché non ce n'erano, era uno strumento molto utilizzato, che però si chiudeva spesso con dei giudizi che sfioravano l'ironia involontaria, inaccettabile, non adatto. C'erano tutti dei giudizi morali che ovviamente riflettevano legittimamente la, come dire, la posizione della Chiesa rispetto a quel film. Fa abbastanza specie vedere che nel 2016, di anni ne sono passati parecchi, si sia ancora lì a quei giudizi che vengono dati, e che in questo caso vengono dati a un film semplicemente perché tratta una storia d'amore omosessuale anziché eterosessuale. Vieri Razzini, è andata così, però mi pare che il film abbia cominciato bene il suo percorso nelle sale. Senti, ieri è andato bene, eravamo il primo incasso a Roma e a Milano, sono quelle cose che poi noi... Per carità, è un piccolo film, è distribuito in poche copie, noi siamo una piccola compagnia, ma proprio per questo... Quando succedono queste cose, abbiamo battuto il film dei Coen, abbiamo battuto questo Legend, eccetera. Una certa soddisfazione c'è, anche perché, ti posso dire, è veramente un bellissimo film. Noi siamo proprio sull'onda del successo di 45 anni, abbiamo pensato di recuperare il film precedente di Andrew Haig, e siamo convinti che sia un vero talento proprio dal punto di vista... di insieme, perché uno che sa scrivere è uno che profondamente regista anche come occhio. Poi quanto alla polemica con la CEI, che dirti, noi abbiamo avuto questa piccola sentenza, diciamo così, e ci ha scocciato moltissimo, perché ci sono tanti cinema le cui mura appartengono alla Chiesa e che dunque non ci permettono di uscire. Questa è una delle conseguenze. Tra l'altro, la sentenza del giudizio della CEI su Weekend è stato sconsigliato, non utilizzabile, scabroso. Sì, ti rivedi almeno in un pezzettino di questi giudizi? Scabroso, bisogna vedere che cosa si intende. C'è un linguaggio molto esplicito in un momento iniziale del film, però intimo, cioè non so... E non, il film è così intenso, parla di un innamoramento, allora parlare di un innamoramento restando castissimi, quando oggi in realtà questo problema non esiste più nella rappresentazione, nella messa in scena delle cose, sarebbe stato ridicolo. Il film non va veramente al di là di quello che è assolutamente... come dire, rappresentabile. Poi tra l'altro lì dentro non c'è la parola che secondo me invece andrebbe associata a una buona percentuale di film, anche di commedie leggere in cui si va coi bambini al cinema a vederle, che è volgare. Ecco, cioè almeno quello non c'è. Io sono molto più colpito dalla volgarità che passa come messaggio subliminale dentro film di cassetta con cui si va coi bambini di 5 anni altro che non ma credo che questo sia per esempio una delle ragioni del successo di Zalone, perché Zalone non ha quelle cose pecorecce tremende che hanno afflitto. Assolutamente, non è volgare, può essere in certi momenti scurrile, ma non è volgare. E nel caso di un film come questo, come il nostro Weekend, veramente la volgarità non si sa che cosa sia, perché intanto perché è un'opera d'arte, quindi lì si aprirebbe. E poi, insomma, quello che veramente ci ha colpiti è che abbiamo aspettato la motivazione della CEI, e la motivazione è che c'è il consumo di droga e l'omosessualità. Ora, mi è sembrato anche un atteggiamento non solo retrivo, reazionario, eccetera, ma anche pochissimo furbo andare a toccare un argomento di questo genere, indicizzandolo in un momento come questo. La CEI ci risponde oggi piccatissima e cercando di buttarla sul buffo, dicendo che se loro avessero questo potere enorme allora si dovrebbe poter rovesciare, quando loro parlano bene di un film dovrebbe essere sempre un grande successo, cioè, ma non è quello, non è il fatto che noi siamo stati impediti per esempio di uscire a Firenze, perché normalmente usciamo in un cinema le cui mura sono dei preti, ma è proprio la sostanza del discorso che loro fanno che ci è sembrata, diciamo, proprio reazionaria. Intanto portiamoci a casa comunque che Weekend è un gran film, che è assolutamente da vedere e che tra l'altro esce veramente a poco tempo di distanza dall'altro film, tu l'hai accennato prima, di Andrew Hay, 45 anni, che era la storia della settimana che precedeva il festeggiamento del 45esimo anniversario di matrimonio di una coppia della provincia inglese. Questo Andrew Hay, dicevi tu, è un regista che va seguito con attenzione. Perché non ha ancora colpito le grandi distribuzioni? Teodora è una distribuzione perfetta, ottima, e che amiamo tutti tantissimo, ma insomma, il potenziale di fuoco è quello che è. Secondo te cosa gli manca per fare questo salto? Allora, probabilmente lo farà adesso, se fa un film spettacolare come pare che sia nei progetti, probabilmente ci sarà anche questo salto. La verità è che però, sai, c'è una certa omofobia nascosta anche nei festival, perché un film come Weekend meritava di diritto di essere a Cannes piuttosto che a Berlino, eccetera, e invece non ha fatto nessunissimo festival importante, eppure si vedeva che c'era proprio la mano, l'occhio, la sensibilità, l'intensità di un grande regista. Quindi ti dici, come mai? Il Weekend ha fatto fatica a fermarsi, poi ha fatto tanti piccoli festival, ha avuto una piccola distribuzione in America, eccetera, perché proprio con le sue gambe, diciamo, non è stato aiutato in nessuna maniera. E quindi il salto molto probabilmente ci sarà, ma sai, i registi che sono artisti e che non hanno voglia di compromettersi, di buttarsi immediatamente a fare una cosa decisamente commerciale, cioè quelli che seguono i loro progetti, magari ci mettono qualche tempo di più. Assolutamente. Comunque, noi lo aspettiamo. Andrew Hay, e nel frattempo, Vieri, lo andiamo a vedere al cinema. Io vi ricordo, appunto, sono 11 sale al momento che programmano il film, però c'è la concreta speranza, date queste medie per sala che sta raccogliendo Weekend, che la settimana prossima diventino di più. E però, comunque, chi è fortunato, diciamo così, e abita nelle grandi città, insomma, sicuramente può evitare di perderlo. Già a Milano, a Roma, per dire, il film si vede, a Torino, quindi insomma state connessi, guardatevi un po' dove viene proiettato Weekend e andate a vederlo, perché è un po' davvero il film di questa settimana. Grazie a Vieri Razzini di Teodora, ci sentiamo prossimamente qui alla Rosa Purpurea. Grazie, ciao. DVD Game, andiamo a sentire la seconda traccia del film misterioso di oggi. E come conquistiamo la cittadella? Supponendo che ci arriviamo vivi. Se blocchiamo il passo, non è difficile. Lui non ha che cuccioli di guerra e figli di guerra malati. E allora, se avete indovinato e individuato questo film misterioso, scrivetene il titolo in una mail alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro indirizzo per provare a indovinare e a vincere soprattutto una delle due copie che saranno a disposizione, che sveleremo la prossima settimana. Adesso viabilità, torniamo fra poco con la soluzione del game di 7 giorni fa e per parlare anche di un film che è diventato mitico ai suoi tempi e che viene riproposto qui, un film con la firma di Jacques Demy. Ne parliamo fra... La rosa purpurea. Le suggestioni sonore di un film di tanti anni fa, 1970, Jacques Demy dirigeva La favolosa storia di Pelle d'asino. Il titolo originale era semplicemente Peu d'âne, un film che era una trasposizione della favola, della nota favola di Charles Perrault, che raccontava la storia di questa principessa che non voleva sposarsi col padre, e qui c'era dentro storie di incesto, eccetera, e si faceva vestire come una pelle d'asino dalla sua fata madrina. Avrebbe conosciuto poi un principe e chiaramente, come tutte le favole, sarebbe arrivato un lieto fine. Che la genialità e la grande visione di cinema di Jacques Demy aveva fatto diventare una sorta di musical, che era la cifra proprio del cinema di Jacques Demy, dalle Parapluie de Cherbourg alle Demoiselles de Rochefort, eccetera eccetera. Allora, questo Pelle d'asino, che è veramente un capolavoro da recuperare in chiave e in versione restaurata peraltro, va visto al cinema di Torino, al cinema Massimo di Torino, che è il cinema legato al Museo del Cinema, è proprio lì di fianco alla Mole, e verrà introdotto martedì 15 nella sua prima proiezione alle 20:30 da Andrea Borini, che è in collegamento con noi. Ciao Andrea. Sì, buon pomeriggio, ciao Franco. Allora, raccontaci un po' l'importanza di questo film, perché vederlo e quanto conta nella filmografia di Jacques Demy. Perché vederlo? Innanzitutto perché è un film di Jacques Demy, e Jacques Demy è un regista che non è mai abbastanza conosciuto. È un regista della Nouvelle Vague, che aveva la particolarità di essere, diciamo, troppo impegnato per un cinema popolare, ma in realtà troppo pop per il cinema impegnato che si faceva in quegli anni 60-70. E lui nel 1970, appunto, si era inventato di fare un film fiaba, che è una cosa all'epoca veramente strana, per parlare in realtà dei temi che più gli erano cari, nel modo in cui più gli era caro. Lui era uno che faceva il cinema, lui lo chiamava enchanté, incantato, perché era incantato, era sia un cinema di incanto sia un cinema di canto. Perché questa è una fiaba musicale. Ecco, una fiaba musicale che tra l'altro ci regala una splendida interpretazione di una ancora giovane in quel momento, Catherine Deneuve. Eh sì, Catherine Deneuve è proprio un'attrice che ha scoperto Jacques Demy, si può dire, con Le Parapluie de Cherbourg nel 1964. All'epoca non era ancora famosa, e l'ha fatta diventare un'icona. E questo è un altro ruolo iconico, perché poi lei è proprio la ragazza più bella del mondo nella storia, quella che il padre deve appunto sposarla. Tu parlavi di incesto, che è un tema che a volte c'è nel cinema di Demy, deve sposarla perché non esiste donna più bella di lei. E in effetti è difficile pensare a una creatura più eterea e più bella della Catherine Deneuve di quel 1970, che però va detto non canta, perché in realtà nei film di Demy voleva sempre che le voci fossero doppiate da cantanti, forse proprio per farne delle icone vere e proprie, insomma. Assolutamente. Delle immagini fortemente iconiche. Abbiamo detto di Catherine Deneuve, Jean Marais nei panni del primo re, Jacques Perrin, che poi avremmo rivisto in Nuovo Cinema Paradiso con i capelli bianchi nel finale del film di Tornatore, ma le musiche firmate Michel come Legrand. Sempre dall'enorme Michel Legrand, che è stato un po', no Andrea, il lievito del film di Jacques Demy. Sì, esattamente. Lui concepiva i film insieme a Legrand, che era a tutti gli effetti un autore anche della sceneggiatura con Demy. Addirittura il film Le Parapluie de Cherbourg è l'unico film della storia del cinema, il primo e forse l'unico a essere stato interamente cantato invece che dialogato, e aveva composto prima musiche e testo e poi ci hanno costruito sopra il film. In questo caso questo è un po' diverso, è un po' una citazione da Walt Disney, diciamo, un pochino come ambiente. Sono più che un musical vero e proprio, è una fiaba cantata, sono intermezzi cantati, anche parecchio ironici e stranianti, perché ci sono anche delle cose moderne all'interno di queste canzoni, perché questo è sullo stile del surrealismo di Jean Cocteau, perché Jean Cocteau è stato il primo a fare un film fiaba con La Bella e la Bestia nel 1946. Assolutamente, poi la modernità faceva parte di Demy, quindi non può esserci assenza di modernità in un film di Jacques Demy. Grazie Andrea Borini, appuntamento allora martedì 15 alle 20:30 al Cinema Massimo di Torino, vicino alla Mole Antonelliana, vicino al Museo del Cinema, per Pelle d'Asino, il grande film di Jacques Demy, versione restaurata. Grazie Andrea. Va bene, vi aspetto, è un film che non assomiglia a nient'altro, cercherò di esserne all'altezza nella mia spiegazione. A presto allora. E allora, dato appuntamento a chi può andare a Torino martedì, perché è davvero un film imperdibile, noi andiamo a parlare del game della scorsa settimana con la clip che vi avevamo proposto. Devo parlare con Messi per trovare il libro più bello di tutti i tempi. Forse posso darti una mano io, Ciccio. E allora si trattava di Snoopy and Friends, il film dei Peanuts che aveva fatto parte del primo blocco di questa stagione cinematografica. Lo hanno indovinato per primi Lorenzo Manini di Villa di Serio, provincia di Bergamo, e Massimo Grasso di Ferrara. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di questo film che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV. C'è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, devo dire che i fan dei personaggi creati da Charles Schulz temevano veramente il peggio da questo film sui Peanuts, anche perché il grande vecchio avrebbe voluto che Snoopy, Linus, Charlie Brown e compagnia non li toccasse nessuno dopo la sua morte. Gli eredi e il team Blue Sky, che per intenderci sono quelli di L'Era Glaciale, ne hanno però fatto un tenero omaggio, filologicamente adeguato e decisamente piacevole e poi non eretico rispetto a quel patrimonio lasciato dal genio di Schulz, che sapeva fare filosofia con le proprie vignette. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, e bene anche il DVD, ottimamente riversato e veramente colmo di contenuti speciali che vanno dal tutorial per disegnare i personaggi a piccoli focus divertenti fino ai video musicali. E allora, questo era il nostro game della scorsa settimana. Noi andiamo a dare un'occhiata invece ai palinsesti televisivi della prossima, partendo da domenica 13 marzo, quando Rai Movie alle 21:15 ci regala Abemus Papam di Nanni Moretti. Io credo che questo sia veramente un film importante per Nanni Moretti, perché è il film in cui questo regista polemico, che ha sempre avuto tantissime cose ficcanti da dire sul mondo, con, pensiamo a tutte le battute che abbiamo amato e imparato a memoria, qui abbiura il suo ruolo di guida. Il papa protagonista del film, che è interpretato meravigliosamente da Michel Piccoli, in un ruolo che tra l'altro, dopo una parentesi, ricorda tantissimo quello di un altro grande film, Che ritorno a casa, di Manuel de Oliveira, è un papa che non solo anticipa il ritiro dalle scene di Joseph Ratzinger, ma in qualche modo mette in scena anche il ritiro di Moretti da leader politico, da leader dei girotondi. Come certifica anche l'ultimo bellissimo film di Moretti, Che è mia madre, è come se questo cineasta oggi fosse veramente disorientato, un uomo che ha perso certezze e che i suoi film sono veramente la traccia del suo vivere in dubbio. E quindi quasi a dire che il papa che si perde è Nanni Moretti, insomma, in questo film davvero straordinario. Lunedì 14 invece, cambiamo totalmente genere, sul nuovo nato, nel neonato Paramount Channel, insomma, lo vedete da poco al canale 27 del digitale terrestre, alle 21 c'è Cloverfield, che invece è un esempio, Giulio, di fantascienza fatta con pochi mezzi ma con tanta efficacia. Sì, assolutamente, siamo in una festa, c'è una videocamera accesa e poi succede la catastrofe. New York è sotto assedio, tutti fuggono, ma i nostri occhi, coincidendo con quelli di quella piccola telecamera, non sanno assolutamente da dove arriva e che cos'è questo pericolo. Il nostro quindi è solo un punto di vista, la verità è lontana, ma è veramente mostruosa. Il produttore J.J. Abrams, che è veramente uno dei geni della cultura popolare contemporanea, quello che ha inventato Lost, quello che ha fatto ripartire Star Wars, per dire due delle sue cose maggiori, qui mixa Godzilla e le nuove tecnologie, ne fa una sorta di action all'ultimo respiro, una sorta di allegoria veramente potente sull'America dopo l'11 settembre, in un film insieme teorico sui nuovi media. È veramente, insieme spettacolo e critica, è veramente difficile chiedere di più. E allora guardatelo, Cloverfield, il film che lunedì alle 21 viene programmato da Paramount Channel. Grazie Giulio e un saluto a tutti gli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima. E allora, siamo già in note di chiusura, come sentite dalla nostra sigla. Appuntamento a sabato prossimo alle 18. Avremo tantissimi film di cui parlare. Sarà la settimana di Brooklyn, di Frankenstein, ma anche di Kung Fu Panda 3. Insomma, tante interviste, come sempre, esclusive qui alla Rosa Purpurea. Io vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo.